Da una chiacchiera con amici neuroscienziati, gente che si occupa scientificamente del cervello, diciamo così, l'altro giorno ho appreso che c'è gente che raccoglie in un computer tutti gli scritti di un tale, possibilmente un grande, un cervellone, i discorsi che ha fatto, le opinioni espresse, le tesi sostenute nel corso di una vita intera, compresi magari i temi scolastici, e le letterine ai genitori per i buoni propositi natalizi. Così facendo, a costoro che lo fanno, sembra di trasferire nel computer una copia del cervello del tale in questione. Ovviamente della parte informativa del cervello, perché neuroni, sinapsi, assoni, glia e pappette varie rimangono esattamente dove sono. Una volta compiuto questo bel lavoro, in base ad un programma apposito, ecco che il neocervello è pronto a funzionare. Sembra che l'abbiano fatto per Gorbaciov. Si vuol sapere cosa pensa Gorbi dell'attuale situazione politica internazionale? Bene, formulata la domanda, il computer va a pescare tutti gli elementi utili per la risposta in quanto memorizzato e dunque sulla base dei precedenti mette insieme la risposta adeguata e coerente alla persona e alla sua logica. Quel che avrebbe detto veramente Gorbaciov se fosse stato lì. Se ciò avesse un senso, i miei nipotini sarebbero a cavallo. Buttano nel computer tutto quel che ho detto, magari corretto da qualche discorso dell'Oliva, e saprebbero come comportarsi in ogni situazione prossima ed eventuale, perché almeno per quel che concerne disgrazie, malattie, catastrofi, guerre, genocidi, finora da solo e senza computer praticamente avevo previsto tutto. Bene, questa porcata la chiamano personalità virtuale. E ovviamente non risparmierà nessuno, soprattutto non risparmierà i morti, presumo. Per cui presto nelle caserme avremo la macchina che ci parla come Giulio Cesare, in Vaticano quella che parla come Sant'Agostino, al Crazy Horse quella che parla come Dodo d'Amburg e al Quirinale quella che parla come Gianni e Pinotto. Ovviamente ciò non ha alcun senso. Mi ha fatto venire in mente quell'episodio da corte di giustizia americana, accaduto credo un paio di anni or sono. C'è uno stupratore e una stuprata. Muore solito, lo stupratore dice che la stuprata era consenziente. Anzi, e qui la mossa è nuova, per l'esattezza dice che una delle molteplici personalità della stuprata era consenziente. Chi se ne frega se le altre no? Interviene prontamente uno stuolo di psicologi e scaricate le loro immonde batterie di test, confermano la trovata. È vero, è proprio vero, la vittima, caso strano, possiede una ventina di personalità e una di queste, anima dannata, era consenziente. In Italia è un episodio da non diffondere troppo, perché potrebbe suggerire qualcosa al fisco, che potrebbe decidere di tassarle tutte le personalità, ma in America, a quanto pare, non ha creato neppure un eccessivo scalpore. Ma con l'idea di una personalità virtuale, la trovata è incompatibile. Delle due, l'una. O l'insieme delle informazioni contenute in un cervello costituisce ciò che chiamiamo persona, o la persona, in quanto singola e unità compatta, è una finzione cui al momento opportuno si può rinunciare a cuor leggero. I due paradigmi si contrappongono. In teoria, una convivenza civile non può basarsi su entrambi. In teoria, In teoria, perché c'è almeno un altro motivo per reputare lo smercio di personalità virtuali una truffa da quattro soldi. Il primo presupposto di una personalità virtuale è infatti quello che vorrebbe l'insieme del sapere di una persona come un algoritmo univoco, ove la coerenza governi incontrastata. Ma di persone così architettate al mondo è difficile incontrarne. non dico i politici, non dico i giornalisti, ma gli stessi scienziati, magari come quelli di cui parlavamo la settimana scorsa, che riuscivano a coniugare brillantemente determinismo scientifico e superstizione, gli stessi scienziati si contraddicono continuamente, asserendo oggi con sorridente faccia tosta esattamente il contrario di quanto avevano asserito ieri. Se allora nel computer ci si butta tutto, ma proprio tutto, di quanto detto e scritto da uno di questi, forse non di fronte alla domanda su quanto fa 2 più 2, ma di fronte a qualsiasi domanda che richieda la formulazione di un giudizio, ecco che la risposta si farà perlomeno attendere. Nel migliore dei casi, la personalità virtuale di un Gorbaciov oggi risponderebbe di aspettare a sapere cosa ne pensa Clinton, così come quella di Giulio Cesare aspetterebbe l'opinione di Pompeo, quella di Sant'Agostino l'opinione di San Gerolamo, quella di Dodò d'Amburgo l'opinione di Rita Cadillac e quella di Gianni e Pinotto, considerati un'unica personalità virtuale, aspetterebbero l'opinione di Scalfaro. Restiamo in tema di persona, magari con un'altra sfumatura.